Ecco, noi Francesco Notarangelo di Mescalito Film per parlare del film 77 giorni di Han Tang Zhao in uscita in sala il prossimo 15 maggio. Francesco, ben trovato. Buonasera a tutti, ciao Federico. Lo raccontiamo? Lo raccontiamo assolutamente, è un film d'avventura di nazionalità cinese, tratta la caduta di questo giovane ragazzo che prende la bici e affronta parte del territorio tibetano, una zona completamente disabitata nel quale appunto incontrerà diverse più difficoltà. Senti, dove lo avete intercettato? L'abbiamo intercettato, è una storia un po' strana, diciamo, che cercando tra blog per organizzare un'avventura, una vacanza, abbiamo scoperto il commento di un ragazzo che appunto postava il trailer originale. Quindi siamo andati dal trailer, che come deciso di iniziare una trattativa che per fortuna è andata a buon fine. Ok. E adesso lo stiamo appunto portando in tutta Italia, quindi ci auguriamo di toccare almeno 100 città. Francesco, cosa ti ha colpito del film? Guarda, fondamentalmente è stato un amore a prima vista dal trailer che è avvincente. Poi ci siamo fatti mandare un link strettamente privato che abbiamo ammirato e guardato tutti e tre noi della Mescalito, e il fatto volevamo portare questa avventura che appunto è accaduta realmente, e anche perché il film insomma è molto valido, eh. Soprattutto ha anche tratto un continente, una parte del mondo che è totalmente sconosciuta a noi, che è appunto questa parte del territorio tibetano. Di Han Tang Zhao cosa sappiamo? Di Yang Ta-Zhao sappiamo realmente poco. Sappiamo che ha fatto questo primo film, ha contribuito alla coproduzione di un altro film di cui però non conosco il titolo europeo, e so che probabilmente uscirà fra 2 anni con un altro film. Questo so di Yang Ta-Zhao. Volevamo, come dire, organizzare una prima qui a Roma con lui presente, ma ovviamente è stato troppo complicato e troppo difficile, per cui abbiamo lasciato perdere. Ok. Senti, il film è uscito all'estero? Il film no, no, che noi sappiamo non c'è stata alcuna distribuzione europea, per cui diciamo che speriamo di aprire questo filone, un po' cinese da portare in giro, quindi incrociamo le dita che possa avere un futuro. Ok. Al momento quante sono le sale fissate? Allora sì, al momento siamo in circa 15-20 città, abbiamo fatto un'anteprima a Varese che è andata piuttosto bene, con quasi 300 persone in sala. Ci auguriamo di sfruttare il film per quanto possibile durante le arene estive, il cinema all'aperto, poiché appunto è un film prettamente estivo che tratta e fa venire voglia di viaggiare, di riconoscersi in una vita libera e che si esorta anche a godere della propria esistenza. Quindi ci auguriamo di almeno raggiungere 100 città. Francesco, ci dai tutti i riferimenti web per maggiori dettagli? Assolutamente, invito a seguire la pagina Mescalito su Facebook e invito, per chi volesse organizzare una proiezione, avesse determinate domande, a guardare il sito e a mandarmi una mail attraverso appunto il nostro sito web, che è www.mescalitofilm.com. Benissimo, ricordiamo l'uscita in sala del film 77 giorni di Han Tang Zhao. Dal 15 maggio un saluto e un ringraziamento a Francesco Notarangelo di Mescalito Film. Francesco, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie.